E se i Maya avessero ragione? Nel dubbio, prepariamoci alla fantomatica apocalisse. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. Lascio mio figlio al mondo che verrà. Lui sopravviverà, ne sono sicura. Lui è divertente, è bello, è così caro. Il mondo futuro non ne può fare a meno, ne sono sicura. All'età che tutti dicono difficile, qualche volta è distante, d'ombroso, ma se un mondo futuro ci sarà, potrà contare su di lui, ne sono sicura. Si prenderà carico di ricostruire le strade nuove, le nuove città e farà in modo che nessuno sia escluso, ne sono sicura. Sarà affettuoso ma giusto, affidabile ma leggero, capace ma umile, prezioso ma libero, e la sua allegria sarà contagiosa, ne sono sicura. Buonasera e benvenuti a questa puntata speciale. Questa è l'ultima notte prima della fine del mondo e noi siamo qua. 3 ore insieme, aspettiamo la mezzanotte. Vi vogliamo accompagnare, vi vogliamo prendere per mano e portarvi là verso questa previsione di Maya. Non ci crediamo, però ci vogliamo credere, così un po' per gioco, un po' per affrontare temi seri, un po' per ridere, un po' di leggerezza, un po' di ironia. E con la vostra gradidissima partecipazione potete intervenire con i testamenti, così come ha fatto Rosaria, con cui abbiamo aperto la puntata. Fine del mondo chiocciola radio24.it, la mail, se ci volete raccontare qual è il segno che vi piacerebbe lasciare di voi, qual è l'impronta che pensate di aver impresso in questa esistenza passata che così metaforicamente si chiuderà domani. Quindi fine del mondo chiocciola radio24.it, ma la stessa cosa potete farla anche via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso il numero verde 800-24-0024. I vostri testamenti, ma anche i vostri ultimi desideri. E perché no, se domani avete intenzione di fare qualcosa di particolarmente curioso, siamo qua e ce lo potete raccontare. Una puntata ricchissima di ospiti, dove i Maya ci hanno messo un po' lo zampino. Stiamo aspettando Telmo Pievani, il filosofo della scienza, specializzato in fine del mondo, che sarà qui tra pochissimo traffico, permettendo, mentre un impegno improvviso di lavoro l'ha bloccato a Torino, ma è comunque il nostro angelo. E visto che è un angelo, mi piacerebbe così dargli il benvenuto con una musica celestiale. Massimo, hai lucidato le ali? Eccoci qua, sono pronto, plano sulla città. Massimo Gramellini con noi, ci seguirà in questa puntata, questo viaggio che ho condiviso sulle pagine della stampa in questi mesi per prepararci alla fine del mondo. E anche questa sera prenderemo da te qualche chicca, capiremo cosa portare in questo al di là, chiamiamolo così questa sera con mille virgolette, ma ci piace che ci sia un qualcosa da varcare. Sei pronto per questo passaggio, Massimo? Sì, ma io penso che dobbiamo ragionare all'opposto, non è la fine di qualcosa ma è l'inizio di qualcosa. Non sarebbe bello che davvero da domani iniziasse un altro mondo nelle nostre vite? Io penso che quasi tutti gli ascoltatori, oserei dire tutti, firmerebbero per iniziare qualcosa di nuovo domani, anche perché ci stiamo lasciando alle spalle uno degli anni e uno dei periodi in generale più tristi, no? Più deboli, più fragili, più depressi della storia umana, gli ultimi 5 anni, quindi è chiaro che la possibilità di iniziare penso che piaccia a tutti. L'unica cosa che non ho capito, Federico, è a che ora comincia tutto questo, perché mi hanno detto che è alle ore 12 italiane. Ah, sì? La fine del mondo. Ma quindi volevo sapere, ma quindi i Maya avevano, c'era un Maya italiano, c'era un Maya di Macerata, di Pinerolo, non lo so, cioè come facevano a calcolare l'ora? Era sul meridiano di Greenwich, cioè come facciamo a sapere che ora è esattamente che succede tutto questo? Guarda, questa domanda sai che ce la siamo posta anche noi e abbiamo detto portiamoci avanti, andiamo là dove è già il 21 dicembre e capiamo se è successo qualcosa. Quindi è partita una ricerca verso le isole Tonga, e non solo abbiamo trovato un italiano, Massimo, abbiamo trovato un italiano che è fondatore del Toro Club di Tonga. Cioè, ma siamo meravigliosi del toro, anche a Tonga ci trovi. Siamo pochi, ma siamo ovunque. Siamo un virus che non si riesce in nessun modo a fermare. Diamo il benvenuto a Gian Pietro, detto GP Orbassano, da Tonga. Ciao! Ciao, attenzione. Saluti anche a Massimo. Ciao fratello. Ci ha risposto, e questo è un ottimo segno. Che ore sono lì, GP? Beh, adesso sono le 9:15 del mattino, sta piovendo, siamo ancora vivi. Nonostante siamo del Toro, che c'è questa nomea, no? Siamo i tifosi granata, che insomma abbiamo questo nuvolone che ci sovrasta, quindi noi abbiamo una certa abitudine a vivere con le scaramanzie, diciamo, è la nostra seconda pelle. Però ti sento bene, Gianpiero, tutto bene, no? Mi pare. No, tutto ok, sta solo piovendo, abbiamo appena scampato un grosso ciclone che è stato qui nella zona, ha distrutto Samoa, ha semidemolito Fiji, noi ci ha toccati solo di coda per fortuna. Ah, è la stagione dei cicloni qui nel Pacifico. Noi qui a ridere. Voi avete la neve, noi abbiamo lo stesso. Gianpietro, adesso alla faccia dei Maya ci facciamo un po' anche di affari tuoi, cosa ci fai a Tonga? Sì, beh, ho un hotel e un ristorante. Sì. E questo lo gestisce la mia famiglia, mio figlio, mia moglie, mia nuora, eccetera eccetera. Io sono un po' ritirato, io sono un artista, sono un pittore. Capito. E dipingo, faccio molto, un po' in tutto Pacifico. Sono impiegato, fra virgolette, come fotografo ufficiale della famiglia reale di Tonga. Attenzione. Insomma. No, ci basta, cioè convinto. Ma questo è meraviglioso, la famiglia reale di Tonga. Sono impegnato. La famiglia reale di Tonga ha un fotografo? No, sì, ma non è sì, sono io. Ho avuto la fortuna nella mia vita, sono 18 anni che vivo qui a Tonga, di conoscere personalmente il Tre Re, è l'ultimo regno del Sud Pacifico, questo. Gianpietro, scusa la domanda, ma è molto ricco. Già dal secondo che ho conosciuto... siamo entrati in rapporti abbastanza di amicizia, e visto il mio lavoro precedente, io facevo il fotografo professionista e qui non c'era nessuno che svolgeva questa attività, ho cominciato a fare le foto per loro. Perfetto. Gianpietro, scusa, c'è la cosa, si è allargata. Gianpietro, scusami, ecco. Mi senti? Io avevo una domanda interessata per te. Come sta a reddito il re di Tonga? È ricco? Ma direi di sì, il regno non è tutt'altro che ricco, perché non produce praticamente nulla tranne noci di cocco e turismo, però la famiglia reale ha i suoi redditi, sono diversificati, ci sono dei redditi strani. Tonga è in una posizione particolare al centro del Pacifico per le telecomunicazioni, per cui sulla nostra testa ci sono una ventina di satelliti di telecomunicazioni, e loro affittano anche questo spazio aereo per i satelliti, quindi queste sono delle belle entrate per la famiglia reale. Fantastico, grazie davvero Gianpietro per la tua testimonianza, siamo contenti che là dove il sole sorge per primo nel nostro globo sia tutto tranquillo, e quindi continuiamo questa puntata. Buone feste, buon Natale Gianpietro, ciao. Auguri anche a voi, ciao. Auguri anche a Massimo, e sappia che lo seguiamo anche qui a Tonga con i suoi articoli. Massimo, attenzione, il re di Tonga ti conosce, Massimo. No, ma non mi hai lasciato finire, io volevo sapere se il re di Tonga poteva comprare il toro, questo era un modo nuovo di iniziare un altro mondo, con un toro finalmente ricco. No, qui funziona solo il rugby. Ma noi siamo disposti anche a giocare con le mani, non importa, qualunque cosa, con i piedi non è che ce la caviamo benissimo ultimamente, quindi... Ciao Gianpietro, grazie. Ciao. Grazie ancora. Auguroni. Massimo, grazie per questo tuo primo intervento da Angelo. Vado a svolazzare un po' e torno. Vai a svolazzare, certo, ti aspettiamo fra pochissimo, ciao. Intanto invece ci ha raggiunto Telmo Pievani, ciao Telmo, eccoti qua. Buonasera. Allora, Telmo, è sempre complicato presentarti, filosofo della scienza, ma non solo, arrivi orora da Padova, dove hai iniziato la tua nuova attività accademica, vero? Sì, come filosofo della biologia, un nuovo mestiere. Quindi cosa sei passato? Dai libri alle provette, no? O in parte? Quasi, anche, sì. Quasi, sì, okay. Sì. E autore di un libro bellissimo, edito da Il Mulino, intitolato Fine del Mondo. Guida per apocalittici perplessi. Sei ancora perplesso adesso che mancano sempre poche... di più, sempre di più. Dopo aver sentito il contatto da Tonga, senz'altro. Un viaggio in cinque parole chiave che poi andremo a raccontare. Mi piaceva averti qua con me questa sera, perché toccheremo questa giornata, che è una giornata simbolica, che è una giornata in cui molti anche credono, una giornata che è stata anche un fenomeno mediatico. Mi piacerebbe avere qualche spunto e qualche suggestione che sicuramente tu ci potrai dare. Prima però un altro ospite, l'abbiamo svegliata quasi, è stata credo oggi intervistata da chiunque. Quando l'ho chiamata le ho chiesto: Marghe, come stai? E lei mi ha detto: bene, sono ancora viva. È qua con noi Margherita Hack. Ciao Margherita. Buonasera, salve. Ciao. Come stai? Ma discretamente. Ci siamo. Da quanti anni ti fanno questa domanda? Cosa accadrà il 21 dicembre del 2012? Me lo fanno ora di recente. Il 21 dicembre ci sarà il solstizio d'inverno, questo sì, e cioè le notti cominceranno pian pianino a diminuire e il giorno a crescere, e ci si avvierà verso l'equinozio di primavera, quando nascono i fiori e la natura si risveglia. questa poetica Margherita Hack, ti sei un po' stufata di questa storia della fine del mondo, vero? Sì, parecchio. Sono piena di tasche. Ma come mai secondo te ha preso così tanto piede? Boh, perché c'è tanta ignoranza, tanta. Allora, e si creda tutte queste bubole. Del resto, anche alla fine del 1900, e dicevano 2000, 1000, non più 1000, e siamo nel 2012 e il mondo c'è sempre. Certo. Tu i Maya li hai studiati? Loro comunque avevano approfondite conoscenze, no, di quello che è il mondo delle stelle, o no? No, Dunque erano osservatori del cielo. Avevano quello di straordinario che ho visto io, avevano costruito un telescopio zenitale, cioè un tubo verticale nella collina, scavato nella terra e stretto, sarà stato un diametro di un 20 centimetri, e guardando attraverso questo tubo a certe epoche si vedevano in campo certe determinate stelle, e gli servivano forse anche per contare il tempo, gli anni. Ok, quindi insomma erano bravi osservatori, poi avevano questo strano calendario di cui parleremo. Tante sovrastrutture, tante superstizioni. Ma Margherita, tu hai qualche altra data da darci? Cioè, in previsione c'è qualche data più certa sulla fine del mondo? Siamo no. Sereni e tranquilli, no? C'è il 25 dicembre e spero di stare un po' in pace almeno per Natale. Ma nessuno ti chiama per farti qualche domanda sulla stella cometa di solito il giorno di Natale? Già. Avevi dimenticato questo particolare. Margherita, grazie davvero come sempre per la tua testimonianza e davvero buone feste di buon Natale. Ciao Margherita, un abbraccio. Ciao a tutti. Telmo, ho fatto questa domanda a Margherita, che poi è il tuo pane. Come mai abbiamo questo bisogno di darci una data di scadenza? Ma forse perché ci dà importanza, nel senso che in fondo la fine del mondo è presente in tutte le culture umane, questo è significativo. C'è anche in tutte le religioni, nelle tre religioni monoteiste, in culture lontanissime. Confucio provò a prevedere la fine del mondo già durante la sua vita, Paolo di Tarso, quindi ha una caratteristica di fascino evidentemente che travalica i tempi, le culture, le tradizioni. E questo probabilmente è legato alla nostra mente, al modo con cui noi pensiamo, e se c'è la fine del mondo vuol dire che la storia fino adesso ha avuto un senso, che aveva una direzione, che avrà un compimento. E infatti quasi sempre la fine del mondo è associata a un giudizio, no? La fine del mondo è il momento in cui c'è la separazione dei buoni dai cattivi, insomma c'è la giustizia che non abbiamo trovato nella nostra vita e nella storia, la troviamo almeno alla fine dei tempi, e quindi tutto sembra acquisire un senso. Poi una volta uno psicologo ha dato anche un'altra spiegazione che trovo interessante. Dice: In fondo noi sempre pensiamo di essere sulla soglia della fine del mondo, perché così vuol dire che siamo in uno dei momenti più interessanti della storia, cioè siamo sull'ultima cresta dell'onda delle ultime generazioni umane, quindi non facciamo parte di una generazione qualsiasi in mezzo alla storia, ma siamo proprio qui nel momento che conta, alla fine. Ma quindi qualcuno domani tirerà un sospiro di sollievo quando non accadrà nulla, ma ci sarà anche qualcuno che di fatto ci rimarrà male, secondo te? Ci sarà sicuramente qualcuno che troverà un'altra data, si parla già del 23, si parla già di febbraio. Cosa succede il 23 febbraio? Ma cosa perché sai tu che noi non conosciamo? Perché il calcolo, diciamo la trasposizione fra le date dei Maya e quelle nostre occidentali non è così semplice, quindi dal 21 al 23 è la possibile data di questa volta, ma c'è qualcuno che si inventerà sicuramente qualche altro calendario. Tra l'altro una cosa ironica che ho scoperto da poco, probabilmente il calendario Maya che abbiamo usato fino adesso e che finisce praticamente domani, in realtà finiva il muro sul quale era dipinto, nel senso che probabilmente il resto del muro prevedeva altri cicli del tempo che non sono mai stati trovati. Infatti ne hanno trovato un altro di calendario dove c'è anche il ciclo successivo che arriva fino al 7000 e qualcosa avanti. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri ultimi desideri, i vostri testamenti, i vostri cosa farete domani. Ci ha chiamato Nicola da Milano. Ciao Nicola. Pronto? Pronto, sei tu. Sì. Qual è questo desiderio last minute? Domani c'è la fine del mondo, qual è l'ultima cosa che vorresti fare? Una bellissima cena con Monica Bellucci. Romantico, proprio. Romantico. Beh, direi più che romantico, romantico e altro. Cioè non ti fermi. Che l'hai sposata con l'attore. Io direi magari l'attore con una scusa di farsi una passeggiata sulla Seine, intanto andrei a cena con lei. Non solo a cena, ci par di capire qui coralmente. Nicola, hai un paio d'ore di tempo, vedi un po' tu. Un paio d'ore, sarà dura. Anche perché so che il marito è molto geloso. No, mira. Sì, sì. Anche le testate, quindi è meglio stare attenti. Farebbe come quel calciatore, non mi ricordo, Zidane. Sì, potrebbe essere lui la causa della tua apocalisse. Sì. Ciao, grazie Nicola. Va bene, ciao. 824 0024 oppure via sms al 349 238 6666. Stanno già arrivando tanti messaggi, li leggiamo fra pochissimo. La pubblicità, poi torniamo qua per vivere insieme la notte prima della fine del mondo. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. La notte prima della fine del mondo, insomma, tanti messaggi. Domani attenderò la fine del mondo comodamente seduto nel salottino di casa, sulla poltrona, con qualche bicchierino di whisky, la radio accesa, un buon libro e altri piccoli conforti. Anche in queste ore so che ci sono persone che stanno organizzando chi feste, chi meditazioni, chi sta cercando di riempire il bunker. Con noi c'è Rosario Fiorello, chissà cosa sta facendo lui. Ciao Fiore! Ciao, sto meditando. Sto meditando e sto leggendo un buon libro. Ma a quest'ora io sono già quasi a dormire. Io domani mi sveglio alle 5, caro. È vero, perché c'è la tua edicola che ti aspetta. E domani vedrai. Sì, che domani anticipiamo, perché io devo partire domani. C'è un treno alle 7, figurati. Per cui vado prima a fare il sono un pazzo, veramente, perché noi vogliamo proprio beccare la fine del mondo in diretta. Non vogliamo morire nel sonno, capito? Perché sarà nelle mattinate, secondo me. Senti un po', dimmi. Ma che sapete voi di questa storia del terremoto che c'è stato in Nuova Zelanda? O era bufala? Adesso non ne sappiamo nulla. Guarda, ci siamo appena collegati con Tonga e hanno detto era passato un ciclone da poco. Però erano tutti... Ma io ho visto su Twitter, purtroppo erano ritwittati da Vendo Merda, per cui... Non so se quanto fossero attendibili, però parlavano di una di Nuova Zelanda, credo, è già il 21, sì. E pare che ci sia stato un terremoto 7.4. Guarda, adesso io ho davanti a me le schermate e le agenzie. Magari è una bufala, sicuro è una bufala. Perché tu un po' ci credi, vero? No. Ok. Però sempre per parlare uno dice, ma se questi poco a poco ci avessero preso? Secondo me un pochino, sai, tutti non lo dicono, sai, si vergognano un po', però secondo me lo pensano un pochino, Secondo te no? Ma un pochino, ma proprio un minimo, ma proprio 0,01. Cioè tu dici compro quella scatola di pelati in più perché non si sa mai, magari faccio No, ma non è neanche qui, perché dove ti metti? O te ne vai lì in Francia o te ne vai o hai un trullo ad Alberobello. Esatto, sono le due possibilità per ora. Però no, è vero, credo che insomma adesso con me c'è anche Telmo Piovani, che è un filosofo della scienza. Telmo, la gente alla fine un pochino ci crede. Dottore. Buonasera, ciao. Buonasera. Certo che ci crede, non c'è alcun dubbio, tutti ci crediamo un po'. Tra l'altro è bella questa storia del terremoto, speriamo che non sia vero naturalmente, ma il bello è che... Speriamo che non sia vero, speriamo, perché io un po' quando ho visto un terremoto 7.4 ho detto va bene, bufala, perché sennò è un pochino... Ma sai cosa, ci piacciono un sacco le coincidenze, perché se tu guardi davvero ogni giorno ci sono centinaia di terremoti, quindi immaginiamoci domani saremo tutti attenti a vedere cosa succede. Tempeste, terremoti, certo, eruzioni, certo. Chiaro. Qualsiasi cosa accada domani è quello del mondo, è quello, sono i Maya. Quindi vabbè, insomma, Fiore, vai a letto tranquillo. C'è stato... Tra l'altro io all'orario previsto dovrei essere sul treno. Ecco, bene. Morirò sul treno, vi rendete conto? Muoio su un freccia rossa. Quindi pagando anche il biglietto, capito? Cioè, proprio il massimo. Sì, ma no, domani non pago, domani va, tanto chi se ne frega, dai, domani... Salvo. Speriamo bene, va. Speriamo di passare sto Natale, va. Va bene, Fiore, grazie. Vabbè, ragazzi, speriamo di sentirci domani, eh. Sai, mi raccomando, e dico la Fiore, oggi hai visto che come si chiama, John Wayne ha fatto una canzone, l'ha fatta lui, eh. Ah, è vero, non sì. Si faceva il mondo e c'è rimasto solo un giorno, e poi diceva tocchiamo tutti questo corno, piacevamo un corno lì, e questo corno ci salverà, e alla grande, testo incredibile, sì, questa è poesia, grande Fiore, a domani allora, speriamo, visto che hai usato tantissimo. Stasera ho fatto una battuta anche Giorgino, cosa ha fatto? Cioè, ha chiuso il TG1, tu sai com'è lui, serio e compito, dicendo buonasera, finisce il TG1, appuntamento a domani, pausa, mai è permettendo. Tuttora, ma bello, ha fatto proprio quella pausa, ha chiuso tutto e poi mai è permettendo. Bravo Giorgino. E via, se l'è concesso. Ciao Fiore, grazie, buona serata. Ciao, buon Natale. Ciao. Probabilmente non ci sarà la fine del mondo domani, però è una data significativa. Prima ce l'ha detto Margherita Hack, è comunque il solstizio. È una data perché per chi frequenta anche gli ambienti spirituali è comunque una data di cambiamento, perché finisce un'era, finisce un ciclo, e quindi in questo giorno, in questa ora, si vedono dei segni. Adesso ci colleghiamo con il giardino di pace del nuovo tempo. Siamo a Celiem Sapica, in provincia di Brindisi. E c'è una base terrestre, così si definisce, dove si mettono in pratica insegnamenti basati su una nuova legge del tempo. E con noi c'è la fondatrice di questo giardino di pace. Diamo il benvenuto a Fiorella Capuano. Ciao Fiorella. Ciao. Ciao. Buonasera a tutti. È sempre complicato rendere comprensibile quello che fate, quello che studiate, perché sono discipline alte o comunque non di quotidiana frequentazione. Che cos'è un giardino di pace del nuovo tempo? Beh, il giardino di pace del nuovo tempo è una base terrestre nel quale si vive il tempo multidimensionale. Noi siamo stati definiti ingegneri galattici, tutti questi paroloni che fanno tanto paura, in realtà è semplice, usiamo un calendario lunare, che è il calendario delle 13 lune, il calendario che ufficialmente sta prendendo il posto del calendario gregoriano. Ufficialmente dove? Scusa? No, ufficialmente dove? In tutto il mondo. In tutto il mondo, perché si tratta della fine del tempo, nel senso che della fine del ciclo, mai si è parlato della fine del mondo, si parla invece della fine del ciclo, e cioè di un nuovo paradigma culturale, di una nuova era, della nuova era solare, e quindi anche della nuova età dell'oro. Si parla di un risveglio della coscienza, si parla di una nuova prospettiva, di una nuova ondata di positività, se pensiamo che domani finiscono cicli su cicli, di cui il minore è quello di 5.125 anni, definito il ciclo della storia, quindi della storia, patriarcato, legato alle guerre, alla competizione, alla conflittualità, e il più grande è un ciclo di 104.000 anni, ovvero 4 volte 26.000 anni. Noi sappiamo che esiste un ciclo di 26.000 anni del nostro sistema solare, da un punto all'altro dello spazio, e sta finendo il quarto ciclo di questi 26.000 anni, quindi ci troviamo in un momento straordinariamente elettrizzante, meraviglioso, e per questo che in tanti stiamo qui in questo pianeta, una popolazione così numerosa, perché è un momento magico della Terra, è una fase evolutiva della coscienza umana senza precedenti. E Fiorella, ci ha dato un assaggio di quello che fate, ma ci ritroveremo un po' più tardi, così ci racconti anche cosa vi state preparando e come vi state preparando a vivere questa data per voi significativa. Intanto ci ha scritto Paolo Attivissimo, il divulgatore scientifico, sarà con noi nel corso della puntata, ci racconterà un po' di bufale apocalittiche, ci segnala che non c'è nessuna traccia di questo terremoto in Nuova Zelanda, quindi lui continua giustamente a fare il suo lavoro di anti-bufala. Telmo, ti vediamo un po' sorridere mentre parlavamo di questo giardino di pace del nuovo tempo, e in parte dico che condivido. Siamo anche forse poco abituati però a frequentare appunto dimensioni spirituali o a pensare che comunque ci sono persone che vivono i cicli della natura, che vivono il rapporto anche con la natura e col tempo in chiave meno materica. Sì, certo, ma io non penso che lo scetticismo scientifico debba portare a un inaridimento e a perdere queste dimensioni, anzi... Secondo me poi se gli effetti di queste, come dire, profezie sono positive, l'importante è che si autoavverino, quindi che tutto questo ottimismo su questo cambiamento del ciclo porti a dei comportamenti diversi. Questo potrebbe essere un bel modo di interpretare correttamente la fine del mondo. E ricordiamoci sempre che dovremmo capire di quale mondo stiamo parlando. Per esempio, non mi dispiacerebbe che finisse un certo mondo di consumi eccessivi, oppure che imparassimo a capire che forse esistono altri mondi, nel senso altri modi di svilupparsi, di entrare in relazione con l'ambiente. Quindi la fine del mondo può essere una buona occasione di riflessione per cambiare i comportamenti, anche in chiave spirituale, non soltanto materiale. La data del 21 dicembre, già prima l'hai di fatto sfiorato anche tu l'argomento, è una strana interpretazione di questi del calendario Maya, per capire appunto cosa c'è alla base, da dove nasce il tutto, questa interpretazione errata che poi probabilmente i mass media anche hanno amplificato. C'è con noi Giulio Magli, che è docente di archeoastronomia al Politecnico di Milano. Buonasera Magli, benvenuto a questo buonasera, speciale. Grazie, buonasera. Lei non è preoccupato, immagino, per domani, giusto? No, direi senz'altro di no. Tanto... Sono preoccupato di riportare i Maya un po' sulla a cosa erano veramente e cosa hanno veramente pensato e prodotto, questo sì, mm-hmm. Questo mi piacerebbe proprio. Intanto come proposito per la nuova era, sì, scusami. No, niente, l'archeoastronomia cosa studia? L'archeoastronomia studia come l'astronomia, le conoscenze astronomiche sono state inserite nel progetto di tanti monumenti antichi, anche Maya, però l'esempio classico è Stonehenge, piuttosto che le piramidi di Giza, piuttosto che il Pantheon. Quindi studiamo come loro concepivano i cicli astronomici e come li inglobavano nei cosiddetti allineamenti astronomici, cioè nel modo in cui l'architettura veniva progettata. Certo. Ecco, ho letto quello che hai scritto su questo calendario Maya. Ci puoi spiegare veramente in poche parole dove sta l'inghippo? Sì, l'inghippo è che nella data del 21 dicembre, che è giusta, capiamo come. Allora, prendiamo il nostro calendario ha tre date. Ci sono i giorni, i mesi, gli anni. I giorni sono ciclici, al massimo un mese ne ha 31. I mesi sono ciclici, al massimo ogni anno ne ha 12. Però gli anni crescono uno dopo l'altro, quindi le nostre date non si ripetono mai. Invece le date Maya erano composte da 5 numeri invece che da 3, ma questo è poco importante. La cosa importante è che l'ultimo numero, quello che corrisponde misura più grossa del tempo, era anch'esso ciclico, aveva al massimo 13 valori, poi sarebbe ricominciato. Allora noi possiamo, come dicevate anche prima, possiamo ancorare le date Maya alle nostre tramite i risultati archeologici e sappiamo con ottima precisione che il ciclo che i Maya stavano vivendo sarebbe finito o il 21 oppure il 23, secondo un'altra interpretazione, dicembre di quest'anno. Quindi l'unica cosa che i Maya hanno veramente detto è che il loro calendario era ciclico, non sappiamo perché, e che sarebbe finito il 21 dicembre 2012. Cosa vuol dire che sarebbe finito? Che il giorno dopo sarebbe cominciato un altro ciclo. Assolutamente. Giulio, concludendo un'ultima considerazione, ho visto che raccontavi che anche questo calendario Maya che abbiamo visto raffigurato in mille fotografie, in mille filmati, non lo è, di fatto è azzecco, no, giusto? Non lo è. No, è un semplice esperimento, diciamo, Google ormai è un strumento talmente utilizzato che ci dà qualche informazione di massima su come le cose vengono vissute o anche le cose vengono distorte, no? Allora se andiamo su Google Immagini e proviamo a cercare il calendario Maya, ci viene fuori un'immagine che molti di voi molti avranno visto, è un grosso disco di pietra con al centro un viso che poi è il sole, che mangia un cuore umano. Attorno a questa immagine ci sono cinque schede, diciamo, che si riferiscono a cinque età del mondo. Allora, questo oggetto è veramente un oggetto calendariale, è veramente un oggetto che ha un contenuto un po' inquietante, perché ci sono queste età del mondo che finiscono in modo strano, però è azteco. Allora, gli aztechi, è vero, sono vissuti in Mesoamerica, cioè in Messico, ma sono vissuti 500 anni dopo il collasso della civiltà Maya. Noi cerchiamo il calendario Maya e ci viene mostrato dalla stragrande maggioranza dei risultati di Google il calendario azteco. Mm-hmm. Questo per dire che tutto sommato veramente non c'è nulla che si riferisca ai Maya che abbia questo contenuto così inquietante, neanche nei testi, neanche nel record archeologico. Grazie davvero a Giulio Magli, docente di archeoastronomia al Politecnico di Milano. Ciao Giulio, grazie, buone feste. Ciao, grazie a voi, altrettanto. Ci fermiamo, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua in diretta Radio 24. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. La notte prima della fine del mondo, con me in studio Telmo Pievani, autore del libro Fine del Mondo, una guida per apocalittici perplessi. Telmo, tu hai toccato cinque parole, disastro, catastrofe. Catastrofe, disastro, nemesi, cioè la vendetta, il castigo, l'estinzione naturale e poi l'apocalisse che vuol dire rivelazione, tutte parole piene di significati. Partiamo dal disastro. Disastro è la cattiva stella in latino, disaster, ed è il cattivo presagio, è il punto in cui vedi che la natura ti gioca contro, e i disastri possono essere i più diversi, possono essere dovuti a minacce esterne, quelle che ci piacciono tanto, che ci affascinano, asteroidi che sfiorano la Terra. Tra l'altro uno ha sfiorato la Terra il 12-12 del 12, se vogliamo proprio innamorarci delle coincidenze, cioè mercoledì l'altro. Oppure il disastro può essere quello che noi ci procuriamo per nostra mano, cioè con la nostra complicità. Mm-hmm. E c'è paura del disastro, ma si ha paura perché è una cosa incontrollabile, lo si teme perché è un qualcosa che non possiamo appunto comandare. Sì, penso che sia legato proprio alla nostra evoluzione più profonda. Noi siamo nati in un ambiente imprevedibile, incerto, violento, che non ha molto rispetto di noi, degli esseri umani, e quindi naturalmente abbiamo cercato di affrontare questa paura in qualche modo, e quindi lo facciamo così. E tanto è vero che spesso quando c'è una catastrofe la definiamo una catastrofe naturale, ma spesso è una catastrofe umana dovuta a noi. Mm-hmm. Ecco, ma questa fine del mondo che tanto ci spaventa, adesso concedetemi le virgolette, però che tanto abbiamo decantato, l'uomo l'ha rischiata, cioè ci sono stati momenti dove veramente l'uomo è stato lì per estinguersi. Sì, per questo è vero, non lo ricordiamo mai, perché la fine del mondo c'è già stata. C'è già stata tante volte nella storia profonda, le cosiddette estinzioni di massa sono delle grandi catastrofi che hanno interrotto il normale corso degli eventi evolutivi, e il bello è che noi non saremmo qui se non ci fossero state quelle fini del mondo degli altri, quelle catastrofi. Noi siamo figli degli asteroidi che hanno colpito la Terra e hanno estinto quasi tutti i dinosauri e così via. Ma una scoperta recente che è stata fatta e che è molto interessante è che anche la nostra specie, che è molto giovane, nata in Africa 200.000 anni fa, verso la metà della sua vita, intorno a 75.000 anni fa, probabilmente ha attraversato quello che si chiama collo di bottiglia, cioè, per dirla in soldoni, abbiamo sfiorato l'estinzione, ci siamo trovati in pochissimi. C'è addirittura chi calcola 20-30.000 individui hanno rappresentato per un po' di tempo tutta la specie umana. Quindi per il rotto della cuffia ce l'abbiamo fatta, e da quei 20-30.000 individui adesso siamo 7 miliardi. Perché comunque, insomma, la fine di qualcosa è sempre, è la natura insieme, la ripartenza di qualcos'altro. I vostri messaggi: noi domani faremo il trasloco alla casa nuova con il nostro piccoletto di 8 anni e brinderemo alla facciaccia di quei gufi dei Maya, si dice Gianluca da Padova. Domani esco dall'ospedale dopo un intervento importante, per me inizia una nuova vita. Questo è il 21 dicembre di Pietre. Ci sono persone che in vista di questo 21 dicembre hanno fatto anche scelte importanti, come quella per esempio di cambiare casa. Così ha fatto Loretta Persichetti, ex modella, che ora si è ritirata di fatto a Roana. Siamo, credo, sull'altopiano di Asiago, un luogo tranquillo e, dice lei, sicuro da esondazioni, fiumi, frane, disastri naturali. Loretta, avevi così paura? No, assolutamente. Ah. Io non ho paura, anche perché la mia vita l'ho veramente fatta meravigliosamente. Ho avuto una necessità di togliermi dal caos, perché intanto il calendario Maya non ha mai detto della fine del mondo, ha sempre detto che succederanno delle cose e già stanno succedendo, e comunque il più grande caos che abbiamo lo vediamo: la politica, il denaro, la sopravvivenza, c'è gente che non riesce neanche a mangiare, quindi siamo veramente in situazioni pesanti. Mm-hmm. Mm. Ma tu hai fatto scorte di cibo? Io credo se il sole farà questi capricci, che addirittura anche i cinesi aspettano questo blackout, e noi abbiamo fatto scorte di cibo, ma perché abbiamo dei pronipoti, dei nipoti e dei bambini piccoli. Quindi se succederà qualcosa, cosa che non succederà, questa cosa drammatica, e noi saremo pronti. E che cosa si acquista per fare una scorta di cibo? Cosa hai comprato? Beh, ho comprato tanti fagioli, lenticchie, tutte cose secche, così possono durare. Sì. Poi pasta, scatolame. Molto scatolame, e poi tanti succhi di frutta, però in scatola. Mm-hmm. Così possono durare, cose che possono durare, niente farine, niente di tutto quello che diventa praticamente immangiabile dopo un po'. Ok, tu ti sei, cioè, non ci credi, però non si sa mai, quindi comunque una spesa in più l'hai fatta per onde evitare di farti, sì, trovare impreparata, giusto? Sì, anche perché io sono in montagna adesso, io sono sull'altopiano di Asiago, quindi la mia badante, la mia cameriera, scusi, stamattina mi ha detto che ci saranno almeno 3-4 metri di neve, che dicono dovrebbero venire. Lei immagina, sono venuti 50 centimetri di neve, io oggi sono caduta sul ghiaccio, per dire, immagini se vengono 3-4 metri di neve, non ci si muove più. Eh no, quindi insomma, mai o non mai è meglio fare la scorta. Mai o non mai. Esatto. Grazie davvero, Loretta. Ti figuri. Buone vacanze. Abbiamo ancora pochissimi minuti prima del GR, però mi piaceva sfiorare un altro argomento. Molte volte, abbinata la parola fine del mondo, c'è la parola apocalisse, perché sono legate, giusto Telmo, queste, sì, queste certo, due termini. E quindi ho detto, ma capiamo il perché. Quindi ho invitato una biblista e sono contento perché qua con noi c'è Marinella Perroni, coordinatrice delle Donne Teologhe Italiane. Ciao Marinella. Ciao, buonasera, buonasera. Tu hai paura? No. No, okay. No, no, io sono qui, stiamo facendo una festa di un compleanno, quindi va bene. Va bene. Ecco. Allora Marinella, la parola Apocalisse c'entra qualcosa con la fine del mondo e con i Maya? Allora, con i Maya no, assolutamente. Con la fine del mondo, ma c'è un intreccio strano, perché per sé il termine Apocalisse, che è la denominazione dell'ultimo libro biblico, dell'ultimo scritto della Bibbia, per te vuol dire rivelazione, è la rivelazione, però è vero che essendo una rivelazione sulle ultime cose ha anche una serie di linguaggi, riferimenti, allusioni, codici un po' strani che vanno decodificati con una certa conoscenza di tante cose, e quindi è anche il libro più difficile da è una rivelazione che non svela poi granché nell'immediato, ma certamente rimanda all'idea che a un certo punto finalmente il Cristo tornerà come vittorioso e finirà il tempo della sofferenza, il tempo delle lacrime, il tempo della morte. Cioè ha dentro di sé questo scritto la tensione verso un ritorno definitivo e glorioso e naturalmente salvifico, ecco. Quindi si può capire perché poi viene il termine collegato a un'idea diversa che è quella della fine del mondo. Ok, insomma questa è la definizione, Marinella, ma noi stiamo giocando un po' sulla fine del mondo, però cercando anche di buttare dentro contenuti di spessore, perché è veramente l'occasione per affrontare temi che di solito non si sfiorano. Tu nei tuoi ambienti hai captato timore, no? Hai captato forse fastidio anche per tutta questa pubblicità legata al calendario Maya? Se devo essere sincera, avevo captato di più nell'anno 2000. Ok. Quest'anno, francamente, o in questi ultimi giorni, no. Anche perché secondo me siamo presi molto da un presente pesante, e quindi non lo so. Non c'è, nel 2000 ricordo che c'era questa voglia anche di giocare, di pensare, di rilanciare l'idea di un passaggio epocale che poteva comportare anche la fine del mondo. Questo io francamente non ho captato granché, ecco. Perfetto. Sì, ogni tanto qualche cosa, okay. Ma niente di più. Grazie davvero Marinella, buon Natale. Grazie a voi, buon ciao. Natale a voi. Ciao, ciao. Ciao. Telmo, ti vedo sorridere, lo so, perché sono tante discipline che alla fine entrano in gioco. Che poi... Sì, tante storie. Per esempio, io però scagionerei il sole, come è stato citato prima. Non farà niente di particolare il sole in questi giorni, ma l'attività del sole è anche quella ciclica, cioè ha dei momenti di maggiore attività, e di quello invece dovremmo tenerlo presente e prepararci, ma il prossimo picco è verso la metà dell'anno prossimo, tra maggio e giugno 2013, ma i tecnologi lo sanno già, si stanno preparando, perché può questa attività solare un po' più alta creerà sicuramente qualche danno alle telecomunicazioni, tutti gli aggeggi elettronici. 824-0024, numero verde, 349-238-6666 per i vostri sms, oppure fine del mondo @radio24.it per le vostre mail. Tutto questo dopo il GR, torniamo fra pochissimo. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. Eccoci qua ancora in diretta a Radio 24, la notte prima della fine del mondo. I vostri messaggi al 349-238-6666 oppure il numero verde 824-0024, i vostri ultimi desideri, anche i vostri testamenti ne stanno arrivando, alcuni anche reali, qui non so, chiedono se valgono, tipo Fabrizio Morelli ha deciso di lasciare il 50% della sua casa alla moglie, la moglie credo sia felice, e ci potete appunto scrivere con me, il filosofo della scienza Telmo Pievani, e poi la sentite questa musica angelica, perché ci stiamo connettendo con il nostro angelo che non è potuto essere fisicamente qua con noi, ma ci sta proteggendo da lontano. Massimo Gramellini, ciao Massimo. Sono in spirito, sono presente in spirito. Ecco, quindi assolutamente. Sono nell'etere. Noi stiamo viaggiando, stiamo parlando di stelle, stiamo parlando di emozioni, stiamo parlando di spirito, stiamo parlando di spiritualità, insomma tanti elementi che entrano in questa strana notte. È un gioco, però è un gioco che permette di affrontare temi caldi, temi che ci sfiorano e dove magari a volte c'è anche timidezza o imbarazzo a immergersi. Sono invece temi che tu conosci bene, che ami narrare. Tu sai come la penso? Io ormai, dopo aver creduto come tanti per tutta la vita che si potesse cambiare la società con un cambio, con le rivoluzioni, con le riforme, con i cambiamenti, mettendo delle persone diverse al posto delle persone che ci sono, poi mi sono reso conto che non funziona così, perché come vedi ogni volta che cambiamo classe dirigente, dopo un anno abbiamo voglia di cambiarla di nuovo, quindi il problema non è legato alle persone, il problema è dentro di noi, il problema è che l'umanità deve fare proprio uno scatto di evoluzione, e in questo ci sono tanti modi per farlo. Io così da piccolo uomo di, non dico di cultura, ma insomma di abituato a maneggiare i libri, mi sono sempre molto appoggiato ai grandi libri che formano le coscienze e gli spiriti. E il mio preferito, ne ho parlato anche sul giornale con te, il libro che, ecco, se potessi portare un libro nella valigia della mia fine, del mio viaggio verso un nuovo mondo, è un libro che consiglio davvero a tutti i nostri ascoltatori come lettura di queste ore e di questi giorni, perché spero che saranno ancora molti, molti, sì, davanti, è Il Simposio di Platone. È un libro molto breve, uno straordinario testo nel quale credo ci sia tutto ciò che dobbiamo sapere per vivere, per poter vivere, per capire il senso della vita, e soprattutto il senso di questa parola così tanto usata male, che è la parola amore. Quante volte la diciamo, no? Durante il giorno. Ecco, Platone ci spiega nel Simposio, con una profondità che non è mai più stata raggiunta, ci spiega una volta per tutte che cos'è davvero l'amore. Ed è niente, è una meraviglia, che c'è una pagina in particolare che io, ecco, dovessi portare una sola pagina in una valigia, se l'aereo fosse un aereo low cost, di quelli dove non puoi portare troppi pesi, una sola pagina, porterei la pagina in cui Platone, come attraverso la voce di Socrate, racconta che cos'è la scala dell'amore. La scala dell'amore è questo passaggio in cui tu, contemplando il bello in un essere umano, passi poi a contemplare il bello nelle leggi dell'uomo e poi nelle idee da cui nascono queste leggi, fino a che ti ritrovi a contatto con il bello in sé, con l'immagine stessa del bello. Ecco, questa attrazione verso ciò che è bello, ma dal fisico allo spirituale, un passaggio dopo l'altro, un gradino dopo l'altro, è davvero la storia che dovrebbe percorrere ogni essere umano. Noi invece questa cosa l'abbiamo completamente perduta, no? Ormai abbiamo una visione materialista dell'amore e di tutto, devo dire, e questo ci rende infelici, sostanzialmente la nostra infelicità nasce da lì. Tra l'altro c'è un coro angelico che ti sta accompagnando, adesso lo senti solo anche tu, vero? È un effetto che... No, ma non è Platone, ero d'accordo con Platone che dall'aldilà mi ha mandato un effetto del Simposio. Però, beh, guarda, non è mai nulla per caso, la vita, succede sempre tutto, c'è sempre un senso, sai come in queste cose io non sono un fatalista, io sono uno che crede che tutto ciò che capita ha sempre un significato. Benissimo, Massimo, grazie, noi ci segniamo il libro, ce lo mettiamo nel nostro zaino, nel nostro trolley da viaggio, magari preparati anche una canzone e un film, così prima della fine del mondo appunto riempiamo il nostro bagaglio e siamo pronti per partire. Ci sentiamo fra molto pochissimo, volentieri. Grazie, ciao, ciao, ciao a tutti. Quella che state ascoltando non è musica di angeli, ma è musica di strega capricciosa. Stiamo ascoltando Sunrise, l'ultimo lavoro, ma è più che un lavoro, è un progetto in cui si è tuffato, un progetto sinfonico. L'ultimo lavoro di Giovanni Allevi, che è qua con noi. Ciao Giovanni. Ciao, ciao Fede. Ciao. Grazie per l'invito, ma... che bello sentirti. Grazie a te, come stai? Bene, bene, un po' pensieroso. Come un po' pensieroso? Perché è un momento di bilanci. Anche se dura poche ore, poi tutto ricomincerà come prima, però per un attimo ci fermiamo. Ma sai che questo è uno spunto interessante, nel senso che uno ci può credere o no, però ecco, prende magari l'occasione per guardarsi un attimo indietro, vedere quello che è stato, quello che è, e magari buttare l'occhio anche verso il futuro. Quindi ti sei fermato un attimo a guardarti? Ma più che altro a riflettere sul fatto che la cosa più difficile da ottenere è percepire il mistero delle cose, cioè scrollarsi di dosso la routine e pensare che ogni momento è unico, e ripetibile, infinito. E questo credo che sia difficile per me. Certo, insomma, questo è importante. Ma tu un po' ci hai creduto, ma no, cioè, alla fine del mondo, sì, ai Maya, cioè per te era una data così, come se fosse una data da tour, ecco, diciamo così. No, poi io sono distratto, sono stato investito di questa problematica mediatica solo la fine. Ma come, stasera, oggi è la fine del mondo? Sì, sono fatto in tempo a prepararmi. Beh, questo, guarda, abbiamo scoperto che forse non è il 21 ma è il 23, quindi hai ancora un 48 ore di bonus per poter studiare, per preoccuparmi. È bello, perché comunque il sorriso di Giovanni è nel segno sempre della gioia, dell'ottimismo, anche dell'ottimismo istintivo, no? Che è una cosa che ti appartiene, che poi traduci in musica, e quello è come riesci a canalizzare i tuoi sentimenti, le tue emozioni. Giovanni, ti sei divertito un sacco con quest'ultimo progetto, con Sunrise? Beh, è stato molto impegnativo, un bel viaggio introspettivo, perché ecco, per manifestare qualcosa di, se, con tutta l'umiltà lo dico, di luminoso, di sereno, bisogna guardarsi dentro e venire e fare i conti anche con il proprio lato scuro. Ecco, questo non è semplice, però bisogna farlo. L'hai trovato il tuo lato oscuro? Sì, tutti sì. Abbiamo il lato oscuro, tutti siamo imperfetti. Ecco, allora, ecco, da domani l'imperfezione sarà la norma. Okay. Ecco, e tutti saremo in pace con noi stessi. Giovanni, grazie davvero. Ricordiamo tra l'altro che il nuovo mondo, il nuovo anno ti rivedrà ancora in tour. Si riparte il 28 febbraio, direi, da Roma, Auditorium Conciliazione, poi Catania, Cosenza, Padova, Cagliari, Lugano, ancora Milano, insomma tante tappe. GiovanniAllevi.com, il sito internet per appunto conoscere bene l'intero itinerario. Grazie davvero Giovanni per essere stato qua con noi, e buon grazie. Inizio del nuovo mondo, e soprattutto buone feste di Natale. Grazie, un bacione a tutti, grazie, ciao. Ciao Giovanni, ciao, ciao. Ciao. Telmo, prima Massimo, ma anche adesso Giovanni Allevi, insomma, escono parole che tu mastichi, no? Prima Grammellino ha detto, speriamo che questo per l'umanità sia uno scatto di evolutivo. Giovanni ha parlato di arte, fa sorridere, nel senso che uno va al cinema, ci sono questi film nel 2012, poi compri libri, poi insomma si fa anche del terrorismo, ma si cerca di spettacolarizzare, ma queste sono tappe evolutive, cioè sono tappe che segnano comunque l'uomo, forse più una volta, se adesso è tutto più semplice, è tutto più commerciale. Non c'è dubbio, però queste sono tappe che noi riempiamo di significato. Io però mi permetto di fare, se sei d'accordo, se ti va, il controcanto al nostro angelico Massimo, perché certo. È molto bella naturalmente la scala del bello, del simposio, però c'è anche un altro modo di vedere le cose che non è materialista, ma è l'idea che non c'è un iperuranio dove noi andiamo a cercare la bellezza al di fuori da questo mondo, ma c'è la storia, la nostra, che è fatta di imperfezioni, come dicevamo poco fa, che è fatta di imprevedibilità. Io per esempio non penso che ciò che viene per caso debba sempre avere un significato. Il significato glielo diamo noi, ma il caso esiste realmente, l'imprevedibilità, ed è una cosa molto bella, perché il fatto che la nostra storia sia così aperta significa che in passato c'erano altre possibilità che non si sono realizzate, che ci sono altri mondi possibili, che questo non è l'unico, e che noi che siamo attori di questa storia abbiamo modo di cambiarlo, perché non c'è una necessità già scritta. Per Platone nel Simposio è molto bello, però in fondo lì ci sono delle idee già dall'inizio scritte da qualcuno. Invece forse il bello è pensare che la storia magari la facciamo noi per davvero, con le nostre scelte e anche con i rischi dovuti alla nostra imperfezione. Anche questo è un modo, secondo me, bello per rifondare se stessi. Mm-hmm. Ma l'amore è una cosa solo di noi uomini? No, per nulla, no, okay. Per nulla. È l'empatia, il modo di entrare in connessione e di patire insieme con, per esempio, è di molte altre forme viventi, tra l'altro nemmeno strettamente imparentate con noi, quindi è una proprietà della natura molto generale, per fortuna. E nel tuo libro parli anche di Nemesi come una delle tappe, una delle cinque parole chiave legate alla presunta fine del mondo, comunque prendere la fine del mondo per parlare anche d'altro. Perché? Cioè, perché può essere un... Ma Nemesi è stata una scoperta anche per me, perché Nemesi di solito, mi ricordavo dai miei studi classici, ok, vuol dire vendetta, castigo, arriva la Nemesi, addirittura una stella ipotetica è stata chiamata Nemesi perché avrebbe dovuto avere degli effetti catastrofici sulla Terra. In realtà, se vai a vedere in molti autori greci, Nemesi è una cosa più precisa, è un castigo, d'accordo, ma è un castigo preciso. La Nemesi vuol dire anche indignazione, che è sentimento molto di moda giustamente in questo periodo, ed è la dea che colpisce chi ha avuto troppo, colpisce gli arroganti, colpisce i presuntuosi, quelli che pensano di avere troppo, e vuol dire anche giustizia redistributiva, cioè la Nemesi arriva alla fine, toglie a chi ha avuto troppo, redistribuisce, e quindi è una dea particolarmente interessante per l'epoca in cui viviamo. Fine del mondo, edizione Il Mulino, il libro dove tutte queste tematiche sono ben sviluppate. Non è facile fare divulgazione toccando temi così profondi, ma Telmo ci riesce, perché è un'ottima penna. È il momento di tornare a bomba al 2012, al 21 dicembre 2012, e lo facciamo con un collega giornalista e conduttore televisivo. E un po' ci ha giocato anche lui su questa fine del mondo. Diamo il benvenuto a Roberto Giacobbo. Ciao Roberto. Ciao, ben trovato. Ciao, come stai? Bene. Allora, intanto ti abbiamo invidiato tutti, perché seguendo Maya hai viaggiato mezzo mondo, e questo non è mai male, vero? Ma fa parte del mio lavoro. Sì. Spesso purtroppo si confonde la vacanza con il viaggio, sono due cose ben diverse. Hai ragione. Viaggio per lavoro, anzi, è talvolta veramente molto complesso e molto faticoso. Roberto, tu sei stato di fatto uno dei primi a parlare del 2012 nel tuo programma, raccontando le varie teorie, le varie tesi. È stato un bel viaggio quello che hai fatto, un bel viaggio metaforico. È il mio lavoro adesso, perché una volta, che ne so, un caso viene alla cronaca più di altri, anche tu sei scivolato sul "ci ha giocato". Io ho parlato di quello, ma è un libro che ho fatto nel 2009. Nel frattempo ho fatto anche un libro sui Templari, uno sull'aldilà, uno sulla storia antica che probabilmente è sfuggita ai nostri storici e che ci sono delle prove molto importanti da esaminare. Ogni puntata affronto tre temi diversi, fa parte del mio lavoro, e quindi come potevo non parlare di una profezia che aveva, come dire, una data esatta per capire cosa c'era di vero e cosa c'era di non vero. L'ho fatto, come ho fatto la stessa cosa per mille cose. Se adesso verrà fuori di moda i Templari, si dirà: aveva parlato anche dei Templari. Sì, ho parlato anche dei Templari. Per fortuna non parlo né di terrorismo né di tasse, perché se no ci sarebbe da parlare molto sia di terrorismo che di tasse. Roberto, una curiosità. Ho letto che nello Yucatan è stato fatto questo strano villaggio forse c'è un'italiana che l'ho anche fondata. No, non è proprio, allora, adesso dato che si rientra in un discorso legato a una setta, vorrei andare veramente con i piedi di piombo. Sì, grazie. Ci sono dei momenti in queste sette, queste cose che mi sfuggono e che non voglio affrontare proprio per partito preso. La verità è che c'è un gruppo di italiani che ha costruito a partire dal 2010 un villaggio in Yucatan a prova di, come dire, di catastrofe, delle case costruite in maniera particolare che possono resistere a forti terremoti, a tempeste, a uragani, finestre piccole, mura spesse, riserve d'acqua, riserve di cibo, ma è tutto legato a probabilmente a una setta, perché è una cosa chiusa, è una cosa, come dire, ci sono altre spinte. Devo dire la verità, queste cose mi fanno anche dispiacere, vedere delle persone, magari delle persone oneste, che sono cadute in una trappola legata magari perché hanno avuto un momento di debolezza o perché sono delle persone deboli, mi mette molta tristezza, perché questa volta si chiama fine del mondo, la prossima volta si chiamerà paura nucleare, la prossima volta si richiamerà terrore dell'uragano, e c'è sempre qualcuno che fisicamente specula su queste persone. Roberto, ma secondo te si è esagerato un po', si sta esagerando con questa storia della fine del mondo? Ma io, guarda, sai Federico, ci conosciamo da tanti anni, bisogna andare a vedere le fonti. Questa volta il fenomeno è stato più grande per un motivo molto semplice: c'è stata una cassa di risonanza su internet fatta di totale mancanza di fonti, dove ognuno poteva dire la sua, che più era grossa e più faceva mi piace o più faceva contatti, e allora c'è stato qualcuno che ha cominciato a costruire queste favole. Io cosa ho fatto? Mi sono andato a vedere i testi originali, perché se i Maya mettono un appunto sul calendario, io voglio andare a vedere i Maya perché ce l'hanno messo, e non vedere il giornalista di turno che interpreta una cosa e dice la fine del mondo. E mi sono accorto di una cosa estremamente interessante, che poi è quella che mi ha spinto a scrivere il libro, che cinque popolazioni lontano tra di loro nel tempo e nello spazio, e ti sto parlando dei primi, non sono mica stati Maya, sono stati gli antichi egizi, dal 3000 avanti Cristo fino al 1500 dopo Cristo, legato al fenomeno Nostradamus, che non era proprio un signore che la sera si fumava qualunque cosa e poi col cappello a punta faceva profezie, ma era qualcuno che per il tempo era una persona di scienza e di conoscenza. Hanno detto che in questo periodo, e i Maya hanno messo addirittura un punto preciso sul calendario, c'era qualcosa, sarebbe successo qualcosa. Questo qualcosa è la fine di un momento legato a un comportamento umano negativo e l'inizio di un comportamento che durerà a lungo di pace e serenità. Questa è l'unica cosa che viene detta, ma viene detta prima dagli egizi, che con una formula che dice il dio del male si scontrerà con il dio del bene e il dio del male soccomberà, scritto sul libro dei morti ad Abidos 3000 anni prima di Cristo, e si rifà una posizione stellare di questo periodo. Poi Maya, poi la tribù degli Hopi, i nativi americani, che purtroppo, avendo un nome non molto fonico e non avendo mai avuto il ruolo da protagonista in un film di John Wayne, nessuno conosce la tribù degli Hopi, ma hanno la stessa nobiltà dei Sioux, dei Cheyenne e degli Apache. Okay. Hanno scritto che in questo periodo tornerà il loro dio, che si chiama Blue Star Cacina, a rimettere a posto, dopo un lungo periodo di confusione, le cose sulla terra per colpa degli uomini che sono andate male, e il loro dio tornerà e rimetterà le cose in ordine. La stessa cosa la dicono i cambogiani, dicendo che il drago tornerà sulla terra e metterà a posto le cose. E per finire anche Nostradamus dice la stessa cosa, dice che lui lo vede, ognuno parla del suo dio, Nostradamus era un cristiano, quindi parla di Maria, e dice che ci sarà una rivelazione mariana che rimetterà a posto le cose, dopodiché seguiranno 400 anni di pace. Che ci siano o non ci siano queste rivelazioni, che sia un motivo religioso o non lo sia, tutti e cinque queste popolazioni, Maya compresi, sì, dicono che finisce un periodo negativo e ne comincia uno buono. La cosa sorprendente è che c'è un'ulteriore coincidenza, che sia Nostradamus che, fammi finire, sì, no, è che no, ci siamo persi perché tu queste cose le sai, le hai studiate, ma vai finisci. L'ultima cosa è che sia Nostradamus che i Maya, guarda caso, uno ha detto che ci saranno almeno 400 anni di pace, e recentemente è stato trovato un'iscrizione Maya dove si dice che il tempo continuerà serenamente per altri 400 anni. C'è una curiosa coincidenza, ma ti permetto, Federico, sono leggende, okay, non è scienza, perché se fosse scienza ti direi, allora, il primo, non ci sono previsioni catastrofiche da qui a X anni, perché non è previsto nulla, nessun meteorite, eccetera, e seconda cosa, non si può prevedere il futuro, perché il futuro non è che non si può prevedere a un anno, a due anni, a mille anni, non si può prevedere di un'ora, perché se si potesse prevedere di un'ora, io giocherei la sestina giusta al Superenalotto. Punto. Quindi domani sarai tranquillo e sereno, giusto Roberto? Ma okay, non c'è dubbio, anche come perché qualcuno sempre mi ha detto, sì va bene, ma tu cosa fai? Cosa fai domani? Cioè, cosa appunto, fai domani? Dimmelo. Ma se dovesse finire l'Italia, andrei in qualche altra nazione, se dovesse finire l'Europa andrei in Africa, ma se deve finire il mondo, io non ho territori sulla Luna o su Marte, non saprei come andarci, quindi in terrazzo e guardo il panorama, che devo fare? Okay. Grazie davvero Roberto Giacobbo. Roberto, buone feste, come sempre. Grazie, sei stato te, molto auguri, gentile, sì, anche perché noi invece sapremmo dove andare, per esempio a Cisternino, che abbiamo scoperto che è uno dei comuni che si salverà, e per capire perché Cisternino si salverà abbiamo invitato una persona che quelle zone le conosce molto molto bene. Diamo il benvenuto a Giuliano San Giorgio dei Negramar. Ciao Giuliano. Ciao Fede, ciao. Allora, oggi ho letto i tuoi Twitter che hai detto, ma io non ci credo alla fine del mondo, ma smettetela, è vero? Insomma, hai fatto altri. Sì. Se non altro mi faceva piacere che arrivassero continuamente confessioni dell'ultima ora, e comunque mi sembrava abbastanza strano che tutti si confessassero, e quindi mi premeva dire... Sì. Attenti che domani sarà tutto normale. Hai ragione, perché è nato come un gioco, no? Queste confessioni, no, ma... queste dichiarazioni finali. Sì, i desideri dell'ultimo istante, cioè, ma a parte questo mi ha fatto veramente leggere le confessioni, no? Cioè, domani sarà veramente... anche purtroppo, tra l'altro, tutto identico a oggi, no? Non c'è molta speranza che sia migliorato, magari. Però magari piuttosto sì, io spero che migliori domani, che veramente, come dice Giacobbo, ci sia... da domani comincino i 400 anni di bellezza e pace. Speriamo. Sarebbe più interessante. Ma Giuliano, invece, raccontaci questa storia di Cisternino. Che cos'ha Cisternino di così particolare, tu che lo conosci? Onestamente non ti saprei dire, so di tutte queste tra virgolette dicerie o cose studiate, non lo so, ma io onestamente non ho preso veramente molto sotto gamba l'evento, nel senso che sembra quasi un evento multimediale, appunto, come diceva prima Giacobbo, cioè mi sembra una, cioè, che abbia attecchito proprio perché c'è stato uno strumento perfetto per farlo. Su internet si gioca molto con le parole, e questa non è anche questa bellezza di quel mondo lì, però dall'altro lato credo che si sia creata una eccessiva aspettativa e non, no? Un'attesa strana, stranissima. Anche questo fa buon gioco alla fantasia di tutti, quindi sì, è come se avessimo creato una, come se avessero, se avessimo, non lo so, creato un grande gioco da tavolo, però, come dire, multimediale. Un gioco di ruolo, un grande Halloween, sì, un carnevale, un po'... un gioco di ruolo perfetto, quindi è come anche queste confessioni sono da prendere in questo senso, un gioco, una maniera di anche di mostrarsi nella nudità, così come si è, no? Quindi una buona scusa per svelarsi al mondo. Mm-hmm. Cioè tu Cisternino però lo salveresti, cioè se ti facessero scegliere tre paesi ce lo metteresti Cisternino? Tu... Ma non avrei molto da scegliere, nel senso che non credo avrei delle preferenze. Ma certo, no, faceva sorridere perché appunto è una zona bellissima, sì, ma chissà perché i Maya avrebbero dovuto scegliere proprio Cisternino. Ma guarda che mi hanno scritto in moltissimi che volevano venire a casa mia a stare, migliaia e migliaia di persone, di amici, di ragazzi, veniamo a casa a stare. Io non ce l'ho tutto quello spazio, onestamente. Non avevo previsto un bunker per la fine del mondo. Vedi, poteva essere un business interessante, vedi, ecco. Ti sei fatto distrarre troppo dai tuoi concerti, dal tour. Guarda, non lo so, però la fine del mondo me la sarei immaginata anche diversamente dal fatto che ci sia un giorno per prevederla, insomma, no? Assolutamente. Quindi anche questa non attenderla, è come dire... Se proprio deve esserci una fine del mondo oggi o fra milioni di anni, sia oggi che fra milioni di anni, se non mai ci sarò, dubito. Però spero di non attenderla, ecco. Anche se... Giuliano, casomai finisse veramente domani il mondo, non è stato un brutto anno per te? Grande successo nei concerti, grande successo con il libro, ma sarebbe, a parte che se domani finisse il mondo non ce ne accorgeremmo, per cui non saprei farti un'analisi domani, ok, hai ragione, di quello che è stato un giorno prima tutta la mia vita. Però guarda, io mi piace a livello letterario questa idea, devo dire la verità, no? Nel senso che quanti spunti stanno nascendo stasera o fino ad oggi, e da domani si ritorna alla natura delle cose, così com'è, magari anche un po' noiosa a volte. Però questo entusiasmo comunque mi sa molto di stimolo per tutti, io ti devo dire una verità, sì. Anzi te la dico stasera, non te l'avevo neanche detta prima quando ci siamo sentiti. Io ho scritto una canzone durante quest'anno che non abbiamo pubblicato, che aveva a che fare con questo momento. Però sì, diceva esattamente quello che ti ho detto stasera. Andava a vedere più al giorno dopo, uh-huh, non era successo niente, però era stato un buon pretesto per darsi un ultimo bacio, ecco. Questo è grazie per questo regalo. Allora, facciamo finta che ci crediamo. Tutti, esatto. Facciamo all'amore come si deve. Allora, una scusa in più. Questa è una scusa valida. Bravo. L'avessero scritto i Maya. Ma guarda, ho intervistato due pacifisti che hanno lanciato proprio per domani la giornata dell'orgasmo globale. Perché hanno detto: se è l'ultimo giorno, almeno facciamolo tutti assieme. Era un po' questo il messaggio di pace. Lancio vitale della fantasia incredibile. Per cui forse dovrebbero far finta di averla prevista anche in altri mesi, anni, tipo fra due mesi, incontriamoci fra due mesi di nuovo perché sta per finire un altro mondo. E via. Giuliano, grazie davvero, ricordiamo grazie a voi, date grazie a te. Importanti ci vediamo del domani, mondo. Noi ci vediamo domani assolutamente, il 13 luglio a Milano allo Stadio San Siro, il 16 luglio invece a Roma Stadio Olimpico, che mi sembrano due date da segnarsi assolutamente. Hai sul calendario. Come faccio a credere a questa cosa? No, infatti, devo credere al futuro. Sarà là la fine del mondo per davvero. Dai, vi aspetto a tutti. Ciao e buon Natale. Ciao. A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo. E sulle note di sole dei Negramaro ci fermiamo, la pubblicità, poi torniamo qua con la nostra notte prima della fine del mondo. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. La notte prima della fine del mondo, lo abbiamo citato poco fa, ed è qua con noi scrittore, giornalista informatico, conduttore della trasmissione Il Disinformatico della Radio Televisione Svizzera, Paolo Attivissimo, che insomma è noto soprattutto in rete perché è un cacciatore di bufale. Ciao Paolo, benvenuto. Ciao, buonasera, buona fine ultima sera. Con Telmo vi conoscete, tra l'altro, credo vi siete forse incrociati. Sì, collaboriamo entrambi alle scienze. Poi. Ecco. Sì, ci leggiamo a vicenda, spero. Tra l'altro Paolo è tutt'oggi che su Twitter manda segnali di pace nei confronti dei Maya, vero? Poverini, non sono le vittime di tutta questa cosa. In effetti loro non c'entra niente, la leggenda dei Maya che avrebbero inventato questa apocalisse del 21 dicembre è in realtà di origine assolutamente occidentale, degli anni 70, degli scrittori New Age coniarono questa... lessero un po' disinvoltamente gli scritti archeologici dell'epoca e decisero che ci stava bene associare questa idea della catastrofe a qualcuno di autorevole, e si tirano sempre in ballo gli antichi hanno sempre queste conoscenze un po' magiche, un po' mistiche. Allora il mito ha preso piede, è andata così. Fantastico. Ma tu gestisci, scusa, poi torniamo sulle bufale apocalittiche, gestisci ancora questo servizio antibufala? Oh sì, sì, sì, con molto piacere. Fantastico. Visto che è seguito nel corso di questi 10 anni che lo gestisco, ha raggiunto i 10 milioni di visitatori, per cui evidentemente un po' di interesse c'è. Cioè, quindi uno ha un dubbio, ti scrive e tu trovi la soluzione, più o meno funziona così? È proprio un on demand? Non sempre si può trovare la soluzione, non ho la pretesa di avere la soluzione in tasca, però posso proporre dei metodi per andare a fare un'indagine. Molto spesso l'indagine si fa collettivamente, sia via internet, sia interpellando gli specifici esperti che riguardano l'argomento di un appello, di un mistero, di una curiosità, e così alla fine molto spesso si arriva a una soluzione, se non certa, almeno molto probabile. Certo, nascevano le leggende metropolitane col passaparola, anche quando non c'era internet. Telmo, abbiamo proprio bisogno della leggenda, fa parte della da sempre, fa parte della nostra dimensione, del nostro rapporto col fantastico, credo. Beh sì, perché siamo tutti come Sherlock Holmes, no? Quando dice non credo alle coincidenze, quindi dietro una coincidenza di numeri devo costruirci un mito, un significato. Lo abbiamo sentito anche prima, non lo hanno detto gli Egizi, non ha detto gli Opi, non ha detto i Maya, lo ha detto Nostradamus, dovrà pure esserci sotto qualcosa, no? Poi alla fine diciamo che è una leggenda, però intanto abbiamo messo insieme tutte quelle coincidenze e una persona non proprio molto avveduta può dire vabbè, allora vuol dire che hanno proprio ragione, che la fine del mondo è qualcosa di serio, quindi è un modo, diciamo, per giocare tra leggenda, spacciandola per qualcosa di credibile, di scientifico. Poi sono arrivati i mass media, è arrivato internet, tutto ciò si è amplificato e si sono anche amplificate le presunte bufale apocalittiche. Paolo, tu proprio al convegno del CICAP di quest'anno hai tenuto una sessione sulle bufale apocalittiche. Cosa hai raccontato? Quali sono queste bufale? Ho raccontato un po' delle storie principali che parlano di catastrofi previste per il 2012 o anche negli anni precedenti. Ci sono questi temi ricorrenti, c'è un'evoluzione in sostanza da un catastrofismo basato sulla religione, quindi di origine teologica, Dio prima o poi sarebbe intervenuto a fare qualche repulisti, qualche riordino, e si è passati a una visione più tecnologica delle catastrofi, vale a dire oggi si dice che ci sarà una tempesta solare, ci sarà un allineamento dei pianeti, ci sarà l'allineamento della Terra con il Sole, con il buco nero al centro della galassia, quindi si pesca nella cultura scientifica per poi tirare fuori delle tesi che in realtà di scientifico non hanno assolutamente nulla, ed è questa la cosa che mi preoccupa, perché si è parlato questa sera molto spesso, ho sentito il termine giocare. Purtroppo però io vado nelle scuole a insegnare tecniche antibufala, è un gioco che facciamo per insegnare ai ragazzi e alle ragazze un po' di senso critico rispetto a quello che trovano su internet e anche nei media non digitali. E ho visto, ho toccato con mano la preoccupazione, l'angoscia di tanti ragazzi e ragazze che hanno preso per vere le dichiarazioni che non trovano solo su internet, ma trovano in trasmissioni come quella di Roberto Giacobbo, che per tanti anni ha insistito molto su questa storia, non l'ha presentata esattamente come leggenda. Ho visto i frutti di questa campagna mediatica. Teniamo presente che il libro di Giacobbo ha venduto 150.000 copie e contiene delle perle meravigliose che qualunque esperto del settore avrebbe potuto liquidare, la storia della cintura fotonica per esempio, che non è quella di Goldrake. Peccato. Pagina 127, si dice che di fatto tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 del XX secolo, così scrive Giacobbo, nell'atmosfera terrestre hanno fatto improvvisamente la loro comparsa un numero sempre crescente di particelle di luce dette fotoni. Ora i fisici all'ascolto stanno probabilmente già rotolandosi per terra, mi scuso se si sono fatti male, perché i fotoni sono le particelle della luce, ci sono sempre state, non è che ne è arrivato improvvisamente un numero crescente, a meno che vogliamo teorizzare che l'arrivo della luce finalmente negli anni 70 giustifica la brutta moda che c'era negli anni 70, prima non ci vedevamo. Mm-hmm. E allora adesso che c'è la luce abbiamo cominciato finalmente a rinsavire. Questo è il genere di perla assolutamente priva di alcun valore scientifico che è stata distribuita fra l'altro con un imprimatur abbastanza autorevole come quello dell'Aeri, l'edizione Rai, e quindi molta gente ha comprato libri come questi, ha visto trasmissioni in televisione come Voyager e l'ha presa per vere. Mm-hmm. Poi Giacobbo col tempo è venuto fuori a dire ma io sono convinto che non sia nulla, però poteva anche dircelo prima, insomma, prima di proporci tutta questa storia. Okay. Sarà interessante vedere l'edizione 2013 del libro 2012 alla fine del mondo, probabilmente sarà di una pagina sola. No. Adesso sembra che vogliamo fare il processo a Giacobbo, che è anche un amico, però è un po' l'esempio, perché essendo in onda su una rete generalista, quindi più di quelli che magari fanno cose simili sul digitale o nei canali minori, però in effetti è quel mondo lì. Abbiamo dato anche un premio una volta a Telmo insieme, vero, alle bufale scientifiche più belle. Ma aveva una motivazione, secondo me. Io sono molto d'accordo con l'attivissimo, perché prima abbiamo sentito dire: ma noi facciamo solo il nostro lavoro, registriamo l'esistente. E invece no, perché le narrazioni si costruiscono, le bufale sono frutto di una meditata sapienza comunicativa. E quindi è chiaro che se noi leggiamo su libri di case editrici, appunto, quotate, oppure in prima serata sulla televisione pubblica di queste cose, con non sufficiente chiarezza, succede quello che diceva adesso attivissimo. La linea dentro dei pianeti mi fa impazzire, perché è meraviglioso, perché è un esempio fantastico del nostro antropocentrismo, visto che è un evento che dipende soltanto dal punto di osservazione e dalla galassia Andromeda non vedono l'allineamento nostro, non ha alcun effetto, non c'entra nulla. Paolo, prima di salutarci, quale sarà la bufola prossima? Cosa va di moda adesso? Ma già si stanno presentando i nuovi filoni, perché uno dei temi ricorrenti del catastrofismo è che quando si avvicina la data bisogna inventarsene un'altra per continuare a vendere, certo, pacottiglia o kit di sopravvivenza, come sta succedendo in questo periodo. E la prossima è per il 2060, perché Newton nei suoi scritti ha lasciato questa interpretazione della fine del mondo, ha indicato questa data, e quindi tutti pronti per la prossima volta, anche se sicuramente non mancherà qualcuno che dirà che in realtà il 2038 oppure un altro anno è quello in cui arriveranno gli UFO, perché ci sono sempre di mezzo anche loro. A me di tutta questa storia ha colpito molto l'aspetto, come dire, di salvazione. Mm-hmm. Un tempo aspettavamo il giudizio universale, adesso aspettiamo che gli alieni, che sono gli angeli moderni, vengano a salvarci. E alla fine di tutta questa storia a me rimane un po' di amaro in bocca, perché siamo sempre noi ad aspettare, secondo queste credenze, che qualcuno da fuori venga ad aiutarci. E questo induce molta gente, secondo me, alla pigrizia, a dire: beh, ma io non posso fare nulla, devo aspettare che arrivi da fuori l'aiuto, quando magari rimboccandosi le maniche, cominciando ad essere magari solo un po' più gentili la mattina con il proprio vicino di casa, si potrebbe cambiare un pochino il mondo, cominciando dalle piccole cose. Grazie davvero a Paolo Attivissimo, www.attivissimo.net il sito per conoscere tutte le sue attività. E a proposito di attendere, di aspettare, ci sta aspettando ormai dall'epoca dei Maya Cristina da Milano. Ciao Cristina. Ciao Federico. Grazie per la pazienza. 824. Bene, ho avuto tanta, ma vi seguo sempre, sono una Radio 24 dipendente. Questo ci piace. 824-0024, numero verde che anche tu hai fatto. Hai un desiderio così da notte prima della fine del mondo? Come ho detto, vorrei non morire per mangiare il primo cotechino della stagione. Mi sembra un ottimo motivo. No, perché sono mezza mantovana. Sì. E quindi conosco bene come sono fatti i cotechini da quella parte. E non vorrei proprio perdermela, questa cosa. Guarda, hai convinto anche noi. Tra l'altro, contestualmente è arrivato un messaggio di Miriam che dice: ragazzi, nel dubbio, come si fa a lasciare lì un cabernet così buono? Così, questa meravigliosa bottiglia l'ho aperta e bevuta. Con cotechino, esatto. Certo. Ok, così abbiamo finito in bellezza. Grazie davvero Cristina, ciao e buone feste. Grazie a voi, saluto a tutti, certo. Vi amo. Grazie, ciao. Ricambiamo il traffico, poi ancora qua, in diretta. Hai preso impegni per la fine del mondo. La notte prima della fine del mondo. Stanno arrivando messaggi, arrivano l'eredità, arrivano voglia di partecipare a questa fine del mondo, questa fine del mondo che è stata raccontata anche, insomma, è un tema letterario anche, no Telmo? Cioè, nel senso che comunque è un tema che piace. È un plot narrativo di tanti film. Ah sì, tutti proprio uguali fra di loro. Ah sì, c'è uno schema classico del sì, c'è la cinema. Cassandra che prevede, nessuno le crede, un'altra bellissima figura mitologica, condannata per aver tradito Apollo a non essere mai credibile. Poi c'è l'eroe, di solito uno scienziato qualche volta, che anticipa i tempi, preavvisa, e poi è la tipica favola dell'eroe, che devi superare le prove, il meschino si palesa, sai, alla fine prevalgono gli eletti quando tutto va bene. Io ma credo... prima citavamo Newton, sì? È interessante perché anche Newton scrisse un trattato sull'Apocalisse, proprio lui che ha scovato le leggi fondamentali dell'universo, della la gravitazione universale, però era appassionatissimo di profezie bibliche, del libro di Daniele, dell'Apocalisse, e scrisse un libro a modo suo, che poi tenne segreto, che chiamò il Trattato sull'Apocalisse. Io credo che scrivere della fine del mondo, scrivere dell'Apocalisse, sia anche comunque un immenso gesto d'amore nei confronti del pianeta, nei confronti della Terra, in particolare nei confronti della natura, e credo sia quello che ha spinto e motivato Mauro Corona quando ha scritto quel bel libro Premio Bancarella 2011, che è La fine del mondo storto. E Mauro Corona è qua con noi. Ciao Mauro, benvenuto. Sì, eccomi, buonasera. Sì. La fine del mondo storto, qua. Quanto Mauro Corona in quelle... cioè proprio è un libro urlato, è una denuncia, vero? Me lo puoi concedere? È una denuncia poetica del ragazzi, ci stiamo distruggendo da soli. No, eri stanco di vedere il tuo mondo che tanto ami trattato così male? Sì, è una denuncia in assoluto, forse non tanto poetica, perché insomma la poesia non è forse il mio forte, ma è un'ipotesi, un attirare l'attenzione su questo modo di vivere sciagurato che abbiamo ormai, che abbiamo tatuato sulla pelle. Non basta vedere questi giorni di Natale, questa corsa al regalo, questa frenesia invece che stare buoni, aspettare, no? E avere quello che serve. Non serve dire dove che si mangia bene, basta stare 2-3 giorni senza mangiare, si mangia bene. Cioè l'esistenza su questa terra è come scolpire, bisogna togliere. Se ci togliamo roba, e qui ci sta l'educazione, la base della famiglia, la scuola, ma come fa un bambino a non crescere con certe idee se vede il papà che le pronuncia ogni giorno? Come fa un bambino a non crescere razzista, ad esempio, se sente il papà urlare sporco negro a Balotelli durante una partita in TV? Cioè siamo volpi che lasciano tracce sulla neve, siccome siamo insoddisfatti, perennemente lamentosi e abbindolati da questo benessere, da questo uomo che non deve chiedere mai, da questo orologio che se non costa 40.000 euro non segna l'ora. Cioè io mi sono permesso di scagliarmi questa inutilità dell'oggetto. Siamo diventati, peraltro poi questi oggetti ci dominano, siamo diventati oggetti, proprio oggetti sperduti, a servizio dell'oggetto, perché quando ho un orologio, un Rolex o un Cartier da 40, se andrò, ho paura che me lo rubino, che lo perdi, che mi taglino il braccio, cioè mi crea un problema, invece che tornare all'essenzialità, cos'è che ci tiene in piedi a noi, cos'è che mangia il dottor Monti o tutti quanti politici, letterati, clown, papi, re, cardinali, vescovi, mangiano il cibo che ci dà la terra. Per cui io vedo, per risolvere, ma sono un povero diavolo, quasi patetico, ma per risolvere i problemi del pianeta, al di là di questa fine del mondo che ci vuole sempre qualcosa che per farci un po' tenere sulla corda, no? Ma io vedo un'imprenditoria di terra, un ritorno all'agricoltura, cioè imparare a produrci il cibo e saremo invincibili. Quindi ripartire da lì, fare un passo indietro per ripartire. Mauro, ma ti sei fatto qualche risata appunto a questa notizia della fine del mondo, immagino? Sì, no, ma le risate le si fanno a denti stretti, perché tutta questa gente che ha paura è la stessa gente, e qui torna il problema dell'istruzione, della cultura, è la stessa gente che comprava sale da Vanna Marchi o che va dai Santoni o dai maghi per innamorarsi, andassero per disamorarsi, che è solo un lavoro a usura l'amore, proposto come lo intendiamo noi, cioè io voglio. Ecco, questo esercito di gente credulona, di gente che va da maghi per togliersi il malocchio, che porta il corno è pazzesca sta roba qui, e qui è veramente il termometro della nostra cultura, per carità, non tutta, ma una grandissima parte. E poi se dobbiamo morire tutti, ma che paura c'è? cosa devo salvarmi io per andare a quel paesino lì dove si ric- io non voglio salvarmi se muoiono tutti, perché devo rimanere io? Quindi non ci penso nemmeno, so che devo morire, capiti quando capiti, intanto vivo. Ecco l'educazione anche si dovrebbe. Abbiamo paura della morte rovinandoci l'esistenza sapendo che arriva comunque. E allora se arrivi, nel frattempo faccio le mie cose. Hai ragione, Mauro. Mauro, stavo sfogliando anche il tuo ultimo libro, 20 racconti allegri e uno triste. È stato più difficile scrivere i 20 allegri o quello triste? No, no, non è stato difficile, perché alla fine sono più tristi. Sono più tristi di pensavo di scrivere racconti allegri. Certo, contengono qualche battuta, qualche avvenimento che può muovere al sorriso, può muovere a risate, ma sono prodotti da gente finita, gente di margine, falliti, alcolisti, gente sola, abbandonata, e quindi non sono affatto allegri. Forse io sono malato di questa malinconia esistenziale, che non significa che non sia un uomo allegro e anche pieno di entusiasmo e di speranza, però questi racconti alla fine non sono affatto allegri, anzi quello che credevo triste forse è più allegro di come dico nella piccola presentazione, perché forse veramente la vita è prendere, come diceva un vecchio samurai Yoko Yamamoto nel 1716, di prendere le cose più gravi e serie con un sorriso, con leggerezza, per cui ridere là dove si dovrebbe piangere non è facile, mettersi a ridere, reagire, ma questa la chiamano follia, no? Questa la chiamano follia, ma ci piace molto. Mauro, grazie davvero per la tua testimonianza, complimenti come sempre per quello che riesci a comunicare con le parole. Vi auguro un Natale povero e creativo. È un bellissimo augurio, e lo ricambiamo di cuore. Ciao, grazie. Grazie, ciao, ciao. E continuiamo a ridere della fine del mondo. Telmo, c'è con noi... Adesso mi piace anche definire un divulgatore scientifico, perché è uno che ha la scienza, Dario Vergassola. Ciao Dario. Salve a tutti, io fado l'istituto tecnico industriale, quindi non so, però ho sentito il buon Corona che ha detto: vi auguro un Natale povero e creativo. Povero sicuramente, sì. Lo dico perché, mi piace, però, è un augurio facile quello, tu dici, vero? Questo è facile, creativo ha ragione lui. Però senti, noi siamo una banda, io sto in un quartiere di La Spezia che si chiama Rebocco, c'è una ventina di quelli che siamo a scuola alle elementari, sì. E siamo finiti in una specie di agriturismo su un po' in culo al mondo, e vista la serata che poi ci trova la fine del mondo, ci siamo detti: cosa facciamo se la fine del mondo? Aspettiamo mezzanotte per pagare, perché siamo un po' tirchi, siamo un po' liguri. Aspettiamo un attimino, che se per caso arriva la fine del mondo non si paga assolutamente, e c'è poco da discutere. O se no facciamo che tiriamo a sorte uno solo che paga per tutti. Quindi la discussione si è evoluta dicendo: no, aspettiamo mezzanotte, non ci muoviamo di qua, andiamo avanti a grappe, e a mezzanotte cerchiamo di capire cosa succede. Se siamo tutti vivi è un po' disastro. Oggi ho chiesto un po' in giro nel bar, come un bar di periferia, di un quartiere, una città di provincia, disgraziata dal... Io sono miracolato perché faccio il comico, ma facevo l'operaio prima e frequento tutti quelli che fanno gli operai ancora adesso. Ci sono rimasti a far quello, e c'è un disastro terribile dal punto di vista economico, che tutti mi dicono: magari venissero nel mondo almeno non ci sono problemi con i mutui. Quindi qualcuno se lo sta augurando anche. È vero. Però in realtà mi sa che qua non arriva niente, tutto va avanti uguale. Ma sì. Ma questa sera in questa cena ne avete parlato, no? C'è stato un tema. Ma guarda, non siamo partiti all'inizio, qualcuno ha cercato le cose dei Maya, uno ha detto: ma abbiamo andato a quel paese anche i Maya, pensando fosse una squadra vicino a Carrara, Massa, sai che specie sono a morte con tra ultras così, non sappiamo manco dove erano i Maya, pensavo fosse una città vicino alla Toscana, e è andata avanti la serata, tutto sommato l'abbiamo sfangata molto allegramente, insomma, non credo che ci sia nessun problema. Non credo che arrivi niente, se vediamo arrivare un asteroide, l'ultima persona che chiamo sei te, va bene? Va bene, grazie. Cioè, di diretta ti dico: guarda, sta arrivando un meteorite, però... Ci teniamo. La fine del mondo è che i Maya c'aveva ragione, è tornato Berlusconi, questa è l'unica cosa. Ma loro lo sapevano? Loro sapevano benissimo che aveva Berlusconi, benissimo, ma ultimamente sembra truccato da un ebanista. Io l'ho visto l'altra sera, questa è una cosa che gli va dato atto. Sembra una tavola di legno completamente pirata, e probabilmente dice all'ebanista: oggi fammi castagno, oggi fammi pino, e gli dà colorazione diversa in base al colore che vuole, perché mi sembrava abbastanza un bel tocco di legno ultimamente, mi ha fatto questo effetto qua. Però non credo che ci sia, a parte lui che torna, a parte Monti, un altro tipo di fine del mondo. Sì, no, noi siamo abbastanza sereni e tranquilli, quindi... Ma sì, buona. No, chiamiamo Mario Totti, ci facciamo spiegare. Scusate, ma Mario Totti, se no ci facciamo, facciamo spiegato da Mario Totti, che veramente... Forse ne sta un rapido diavolo. Qui con me c'è Telmo Pievani, vi conoscete? Secondo me avete fatto qualche puntata insieme alla radio? Sì, ci siamo incontrati. Sì. È un con chi? Con Mario? No, con Telmo Pievani, il filosofo della scienza. Telmo Pievani, che non fa il cuoco, quindi non cercarlo in cucina, è un filosofo della scienza. Va bene. Non so dove l'abbiamo incontrato, ma veramente io frequento poco... scienziati, roba così, molto più terra a terra, Saldo Brasatori, roba autogena, cose così, insomma, gente un po' da fonderia, non sono rimasto un po' ancora legato purtroppo a sta roba qua. Ma non è vero?